La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al sistema elettorale italiano, dalla legge truffa del 1953 al cosiddetto Porcellum tuttora in vigore. Ospite ai nostri microfoni il politologo Gianfranco Pasquino. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alle previsioni apocalittiche degli antichi Maya. L'antica civiltà presagì nel dicembre del 2012, in particolare il 21 dicembre, un importante allineamento galattico a cui seguirebbe la fine del nostro mondo. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Alla fine, dopo l'annuncio delle imminenti dimissioni del governo Monti, alle prossime elezioni politiche voteremo ancora con la legge elettorale attuale, il cosiddetto Porcellum, una legge ritenuta dai più pessima e che tuttavia non si è riusciti a modificare. Si riapre così il dibattito sui sistemi elettorali, su quanto la scelta di questo o quel modello possa influenzare l'esito del voto. Un dibattito che, se restiamo al secondo dopoguerra, ci porta indietro fino alla cosiddetta legge truffa del 1953. Il sistema elettorale allora in vigore era basato sul sistema elettivo a suffragio universale e diretto, con liste concorrenti, con espressione di alcune preferenze, secondo l'ampiezza dei collegi. Per la Camera dei Deputati si prevedeva l'elezione di un deputato per 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000. Il Senato, a base regionale, in ragione di un senatore per 200.000 abitanti o per frazione superiore a 100.000. A questo sistema vennero apportate notevoli modifiche con l'articolo unico della legge 31 marzo 1953, numero 148, che attribuiva il 65% dei seggi alla Camera al partito o al gruppo di partiti collegati che avessero ottenuto il 50,01% dei voti. Il relativo disegno di legge venne presentato alla Camera il 21 ottobre del 1952 dal ministro degli Interni, Mario Scelba. In Parlamento le opposizioni insorsero e gridarono alla legge truffa. Al termine di una lunghissima e accesissima discussione parlamentare, la legge venne approvata il 21 gennaio 1953, in tempo per le elezioni politiche del 7 giugno. Chiaro l'intento di Alcide De Gasperi di consolidare il blocco centrista con al centro la Democrazia Cristiana, ma il tentativo fallisce. I partiti di governo tutti insieme sfiorano il 50% senza raggiungerlo alla Camera. Al Senato ottengono il 50,01%, ma in questo ramo del Parlamento la nuova legge non si applica. Le nuove Camere, come primo atto, aboliscono la cosiddetta legge truffa. In tempi a noi più recenti sono due le modifiche più significative della legge elettorale: quella del 1993, che sull'onda di Tangentopoli e dei referendum celebratisi il 18 aprile di quello stesso anno, sancì il passaggio al sistema maggioritario. Le elezioni politiche del 1992 furono le ultime con il vecchio sistema proporzionale. Nel 1994, 1996 e 2001 si è votato con il nuovo sistema, il cosiddetto Mattarellum, in realtà maggioritario a turno unico per la ripartizione del 75% dei seggi parlamentari, unito per il rimanente 25% dei seggi assegnati al recupero proporzionale dei più votati non eletti per il Senato attraverso un meccanismo di calcolo denominato scorporo e al proporzionale con liste bloccate e sbarramento del 4% alla Camera. Nel 2005 la nuova modifica con la legge Calderoli, appunto il Porcellum, tuttora in vigore. Voluta da Silvio Berlusconi, che il 4 ottobre 2005 minacciò la crisi di governo nel caso in cui non fosse stata approvata la riforma elettorale proporzionale, la nuova legge vide la luce a pochi mesi dalle elezioni politiche, con i voti della Casa delle Libertà, Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei Democratici Cristiani, Lega Nord, senza il consenso dell'opposizione: Italia dei Valori, Democratici di Sinistra, Margherita, Partito della Rifondazione Comunista. La nuova legge ha modificato il precedente meccanismo misto, per tre quarti a ripartizione maggioritaria dei seggi, in favore di un sistema proporzionale corretto, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente, in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze. Abbiamo in linea il professor Gianfranco Pasquino, politologo, autore di diversi volumi sui sistemi elettorali e da ultimo del libro Politica è pubblicato da Casa dei Libri. Buonasera professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi e grazie a voi. Abbiamo fatto un breve excursus, professore, partendo dalla legge truffa del 53 per arrivare fino alle modifiche più recenti che sono state apportate nell'ordinamento nel 93 per effetto del referendum e poi ancora con la legge Calderoli. La domanda che le pongo è: in che modo la scelta del sistema elettorale, anche alla luce di questi precedenti storici, può determinare o influenzare l'esito del voto? La legge elettorale influenza qualche volta addirittura in maniera decisiva l'esito del voto, perché influenza anzitutto la scelta dei candidati. È un conto è votare con collegi nominali, un conto è votare con un sistema invece proporzionale, con liste di candidati, un conto è avere il voto di preferenza, un conto è, come l'attuale legge elettorale stabilisce, che le liste sono fisse, bloccate e quindi non c'è nessuna influenza dell'elettore sulla scelta poi del candidato che vuole mandare in Parlamento. La legge elettorale influenza naturalmente le decisioni dei partiti, se presentarsi da soli, se presentarsi insieme ad altri, che tipo di nome persino avere, e alla fine ovviamente influenza gli elettori. Gli elettori non sono sciocchi, come sento dire, non sono affatto insensibili a quelle che potrebbero apparire, come si dice, delle technicalities, ma forse di fronte a scelte diverse si comportano giustamente in maniera diversa. E dunque, se scegliamo una legge elettorale proporzionale, sappiamo che gli elettori possono anche disperdersi sui partiti, sul menu partitico. Se scegliamo una legge elettorale maggioritaria, gli elettori sanno che debbono cercare di far vincere il partito a loro meno sgradito e quindi possono anche non votare il partito che preferiscono, ma quello che rappresenta ai loro occhi, lo dirò così, il second best, la seconda scelta migliore. Ecco, professore, ma, dalla nostra ricostruzione appare chiaramente che per 40 anni, cioè dal 53 al 93, il sistema elettorale che è stato utilizzato nel nostro paese è stato sostanzialmente un sistema proporzionale. Dopodiché, quindi per 40 anni ha retto questo sistema. Dopodiché sono state approvate varie modifiche, prima il cosiddetto Mattarellum, che è un maggioritario corretto in qualche modo, che è servito in tre votazioni, e poi la modifica del 2005, quindi nell'arco di pochi anni due modifiche. Questo, ecco, dal punto di vista dell'analisi politica, cosa vuol dire? Vuol dire anzitutto che i partiti continuano a giocare con il sistema elettorale sperando di trarre dei vantaggi. Qualche volta questo funziona, qualche volta un po' meno. Vuol dire che non c'è accordo, soprattutto sul punto centrale: vogliamo un sistema maggioritario o vogliamo un sistema proporzionale? Perché una volta scelto l'uno o l'altro, poi si possono anche manovrare, tra virgolette, alcune delle componenti dei due sistemi. Non abbiamo deciso. La proporzionale, naturalmente, come si dice, uso il plurale, ma in realtà i sistemi proporzionali sono molto diversi fra di loro per una serie di ragioni: le dimensioni della circoscrizione, come ho già detto, la presenza o no del voto di preferenza, quanti parlamentari vengono eletti e così via. Se scegliamo la proporzionale, dobbiamo sapere che la proporzionale è un sistema fondamentalmente difensivo, non consente a nessuno di vincere molto, impedisce a tutti di perdere tutto o di perdere molto. Sì. Se invece vogliamo un sistema che crei un governo, e allora dobbiamo andare in direzione di un sistema maggioritario, che ricordo anche qui dovrei dire in direzione di uno dei sistemi maggioritari, perché c'è il sistema maggioritario inglese, che è diffuso nel resto del mondo, compreso gli Stati Uniti, e c'è il sistema maggioritario francese, doppio turno con clausola di accesso al secondo turno, e questi sistemi hanno conseguenze molto diverse per i partiti, per gli elettori, per i candidati e anche naturalmente sulla formazione delle coalizioni. Ecco, ma se si guarda la scelta compiuta nel 93 sull'onda di Tangentopoli, Allora lì si decise di abbandonare il vecchio sistema proporzionale e di aprire una nuova stagione, appunto il maggioritario, ancorché corretto dalla quota di recupero proporzionale. Guardando indietro, dal punto di vista storico, secondo lei si può affermare che quella decisione a quel punto non fu proprio saggia, come dire, non fu proprio lungimirante? Quella di accettare il maggioritario nella versione Mattarellum, come si Esatto, dice, esatto. quella doveva essere così perché c'era stato un referendum elettorale, anzi per essere precisi due, perché anche il referendum sulla preferenza unica era servito agli elettori per dire guardate, vogliamo votare il nostro candidato e quindi vogliamo in questo caso un sistema che ci dia il potere di scegliere e questo potere di scegliere non può che essere nei collegi uninominali. La scelta referendaria del 1993 è stata in realtà imbastardita in maniera grave dalla decisione dei deputati di non accettare l'esito del referendum, così come si fece invece al Senato, ed introdurre un quarto di seggi proporzionali, ma attenzione, su lista separata e peraltro anche bloccata. Quello fu l'errore, perché se sia la Camera che il Senato avessero accettato il sistema del Senato, avremmo avuto un sistema a tre quarti maggioritario che avrebbe potuto funzionare abbastanza bene con qualche ritocco. In effetti il Mattarellum non ha funzionato male, aveva qualche inconveniente, ma certo preferibile al sistema elettorale proporzionale che lo ha preceduto e preferibile anche al sistema proporzionale con premio di maggioranza che lo ha seguito. Poi naturalmente io sono più esigente, però se mi si dicesse di scegliere fra i tre la proporzionale prima del 93, il Mattarellum e la legge Calderoli non avrei nessun dubbio, il Mattarellum è dei tre stato sicuramente il sistema migliore. Grazie professore, buona serata. A lei, buon lavoro. Bentornati alla seconda parte della Storia e la Memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alle previsioni sull'imminente fine del mondo. È nella natura umana voler scoprire quando arriverà la fine. Vogliamo sapere quanto tempo ci resta. Probabilmente oggi nessun oracolo ha più ascendente del calendario Maya, con l'ultimo giorno fissato al 21 dicembre 2012. I pianeti si allineano in quella che secondo i Maya sarà la fine di un'era mondiale. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 16 dicembre, alle 23 su History Channel. L'antica civiltà Maya fiorisce e prospera nelle fitte foreste dell'America centrale. Mark Van Stone, autore di 2012, Science and Properties of the Ancient Maya. La civiltà Maya si sviluppò dal 300 a.C. al 900 d.C. nei territori che oggi sono del Guatemala e del Belize, spingendosi fino a Messico, Honduras e El Salvador. Nonostante dispongano di una tecnologia limitata, costruiscono templi e mappano le stelle. Nell'800 d.C. la popolazione conta oltre 1 milione di persone sparse in 6.000 città. Nonostante l'avanzato metodo di scrittura e il meticoloso sistema di documentazione, molta della loro conoscenza va perduta con la misteriosa scomparsa della loro civiltà. Alcuni testi Maya vengono ritrovati ed esposti nei musei solo centinaia di anni dopo, dando il via ai lavori di traduzione. Poi, negli anni 60, in un sito archeologico nel Messico del Sud, viene rinvenuta una stele nota come Monumento 6 o Pietra di Tortuguero. Le iscrizioni sulla tavola citano la data della presunta fine di un'era. 21 dicembre 2012. Per molti, la pietra rappresenta un'inquietante profezia sulla fine del mondo. Tuttavia, alcuni dettagli dell'iscrizione restano avvolti nel mistero. Ancora Van Stone. Nel punto esatto dove c'è scritto cosa dovrebbe succedere, la pietra è rotta. È la legge di Murphy dell'epigrafia. Ma ciò che si deduce dalla parte conservata della tavola è che i Maya fissano al 21 dicembre 2012 un momento cruciale per la storia dell'umanità. Lawrence Joseph, autore di The Solar Cataclysm. In poche parole, secondo la profezia, il 21 dicembre 2012 ci sarà la nascita di una nuova era, e come ogni nuova nascita, sarà accompagnata da gioia, sangue e dolore. Ossessionati dai cicli del Sole, della Luna e delle stelle, i Maya misurano il tempo con metodi da far impallidire gli studiosi moderni. Ancora Van Stone. I Maya non erano solo astronomi, ma anche astrologi. Non erano solo matematici, erano anche numerologisti e avevano una incredibile capacità di registrare gli avvenimenti in modo matematico. Bruce Schofield, studioso di simbologia Maya, Università del Massachusetts. In un certo senso trovarono il numero magico che collegava i diversi ritmi del cielo e poteva essere usato per fare calcoli, ma anche interpretazioni personali, cioè per l'astrologia. I Maya credono che la chiave del destino dell'umanità risieda nei cieli. Usano il loro acuto senso astrologico per prevedere eventi centinaia di anni nel futuro, tra cui la conquista spagnola del Messico nel 1519 e la rivoluzione nelle comunicazioni avvenuta pienamente con l'avvento della stampa e del mondo di Internet. Il tentativo dei Maya di tracciare il tempo è basato sulla comprensione dei cicli celesti e del loro impatto sul pianeta. Capiscono che il moto dei corpi celesti deve essere strettamente connesso agli avvenimenti sulla Terra. Questa avanzata conoscenza rende il loro calendario ancora ineguagliabile. Mark Van Stoon, autore di 2012, Science and Properties of the Ancient Maya. Tenevano traccia degli eventi e contavano i giorni che li separavano. Così potevano stabilire avvenimenti futuri o passati non di migliaia, ma di milioni di anni. I calendari elaborati dai Maya sono in grado di misurare i cicli di diversi eventi astronomici. Il calendario che termina il 21 dicembre 2012 si riferisce a un ciclo iniziato oltre 5.000 anni fa. Bruce Schofield, studioso di simbologia Maya, Università del Massachusetts. Il 21 dicembre 2012 è l'ultimo giorno di un ciclo di 5.125 anni chiamato il Lungo Computo. L'origine del lungo computo è fissata nel 3114 avanti Cristo, un periodo di drammatiche transizioni per l'umanità. Ancora Schofield. Più o meno a quel periodo risale Stonehenge, così come a quel periodo risale l'antico regno egizio. Ci sono moltissimi eventi che si sono verificati in quell'epoca storica, quindi deve essere successo qualcosa a livello globale. Robert Scotch, autore di Forgotten Civilization. Intorno al 3100-3200 avanti Cristo ci sono indizi che qualcosa accadde. Forse un'eruzione solare. Qualcosa è successo. È solo una coincidenza che tutto questo combaci con l'inizio del calendario Maya? Non lo so. Ma quando vedo questi collegamenti, devo sospettare che ci sia qualcosa sotto. Esistono molte teorie su cosa abbia indotto lo sviluppo della civiltà moderna. Ma qualunque cosa sia accaduta, va ben oltre i confini dell'antico mondo dei Maya. Bruce Schofield, studioso di simbologia Maya. Probabilmente fu il clima. Da quel che sappiamo, si verificarono cambiamenti climatici molto repentini. Secondo me fu proprio quello lo stimolo primario per l'evoluzione della civiltà. Il cambiamento climatico globale, un tema scottante dei nostri tempi, potrebbe aver avuto un impatto ancora maggiore sul mondo antico. E mentre l'inizio del lungo computo può chiarire alcuni eventi passati della Terra, la data finale, il 21 dicembre 2012, coincide con un raro avvenimento, uno che non si verifica da 26.000 anni. Robert Scotch, autore di Forgotten Civilization. Una cosa interessante è che il 21 dicembre 2012 il Sole sarà allineato con il centro della Via Lattea. Mark Van Stoon, autore di 2012, Science and Properties of the Ancient Maya. Quel giorno il Sole, la Terra e il centro della Via Lattea saranno perfettamente allineati. E il fatto che avvenga il giorno del solstizio d'inverno, il 21 dicembre, porta molti, in particolare gli astrologi, a credere che sia un evento importante. Tornando indietro di 26.000 anni, troveremmo un mondo molto diverso. Robert Scotch, autore di Forgotten Civilization. 26.000 anni fa, in presenza della stessa situazione, la Terra si ritrovò al culmine dell'ultima era glaciale. L'allineamento dei pianeti è un evento unico nella storia. Se i Maya hanno sviluppato un calendario di una certa era mondiale stabilendo come ultima data il giorno dell'allineamento, significa che forse lo avevano previsto. E questo ci mostra quanto incredibile fosse la loro civiltà. 26.000 anni fa avviene un drastico surriscaldamento della Terra. Accade per via dell'allineamento galattico. E cosa aspettarsi dal 21 dicembre 2012? Lawrence Joseph, autore di The Solar Cataclysm. Alcuni credono che l'allineamento dei pianeti possa causare delle perturbazioni sulla superficie solare, provocando delle esplosioni. Robert Scotch, autore di Forgotten Civilization. Le esplosioni potrebbero avere un effetto incredibile sulla superficie terrestre, scaldando l'atmosfera e cambiando le condizioni climatiche. Io credo che questo abbia avuto una grande influenza e un grande effetto sulle popolazioni antiche, al punto da spazzare via alcune civiltà e di collocare l'umanità nei secoli bui. Il Sole sembra andare incontro a un periodo di instabilità. L'attività solare è scalpitante. C'è un collegamento con l'allineamento galattico? Stiamo arrivando alla fine di un ciclo, alla fine di una cosiddetta era mondiale. È successo già in passato. Ogni era mondiale è stata accompagnata da presagi di distruzione. E credo che i Maya abbiano voluto dirci: accadrà di nuovo. È interessante notare come esista un terzo ciclo che raggiungerà il culmine il 21 dicembre 2012. E potrebbe essere il più pericoloso di tutti. Ancora Joseph. A cicli di 11 anni, il Sole attraversa periodi con picchi di fermento, ossia periodi in cui ci sono più macchie solari e più attività, con tempeste che potrebbero raggiungerci. Quando l'attività solare si intensifica, in superficie avvengono esplosioni di energia che possono avere effetti diretti sulla Terra. Il 21 dicembre 2012, proprio il giorno della fine dell'era mondiale secondo i Maya, il Sole entrerà nel suo periodo più violento. Ancora Scotch. Stiamo iniziando a capire che il Sole è incredibilmente instabile dal punto di vista geologico. Dovremmo fare molta attenzione, perché una grossa esplosione solare potrebbe avere molte conseguenze sulla società moderna come la conosciamo. Ancora Joseph. Il comportamento del Sole alla fine del 2012, sia secondo la scienza contemporanea che secondo l'antica profezia Maya, potrebbe portare a eventi di destabilizzazione dell'umanità. Inizia il conto alla rovescia per l'Apocalisse. E quando la scienza e le antiche profezie sul giorno del giudizio convergono, la gente comune si prepara al peggio. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo L'ultima settimana, il calendario Maya. Regia di Steven Michaels, titolare dei diritti AETN, casa di produzione Asylum Entertainment. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 16 dicembre alle 23, su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.